Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Franco Piantanini in redazione, Fabio Cantadori in regia. È tempo di playoff anche per Palla a Spicchi. Staremo con voi fino all'assegnazione dello scudetto ogni venerdì, domenica sera dalle 8:30 alle 9 per parlare di basket, come sempre, fino all'assegnazione del tricolore. Qui con me un uomo da playoff, Mario Boni, è tornato. Ciao, ciao Carlo, buongiorno a tutti. Daniele da Bologna manda già un messaggio. Diciamo pure che le prime di playoff sono state una vera delusione. Bologna e Varese inesistenti, Milano non pronta e partite veramente brutte, anziché no, scrive Daniele. Altri parleranno con l'800240024. Due partite in effetti molto brutte, sotto i limiti della decenza. Bologna ieri sera a Siena, inesistente, ma per tanti meriti Canturini, secondo me, quella gara 1 del derby lombardo. Molto belle invece Avellino Treviso, e poi ne parleremo. Su Milano non pronta, beh, io chiedo a coach Dan Peterson. Ciao coach. Ciao ragazzi, ciao Mario. Ciao. Guardi, grande Dan. Ovviamente non eravamo pronti, perché questo, quando succede questo, la colpa è del capo allenatore, che deve avere la squadra pronta almeno psicologicamente per giocare la partita. Abbiamo sbagliato 15 tiri da 3 su 20, abbiamo sbagliato 9 tiri liberi su 26, e abbiamo sbagliato 16 tiri nell'area di 3 secondi di 30. Quindi bastava che andasse dentro uno di questi canestri e due di questi tiri, oppure due di questi tiri liberi, e avremmo vinto la partita. Poi abbiamo avuto, loro sono stati bravissimi, ispirati, sciolti, decisi, hanno giocato la loro partita pure senza Travis Diner, perché Pintone ha fatto una partita eccezionale. E poi anche noi sfortunati, nel senso che Carl salva la palla della partita, la butta in campo, finisce in mano di loro, vanno al canestro, pareggio, e lì la nascita della sconfitta. Quindi nonostante tutto potevamo vincere, ma sì, tabellone è senza pietà, hanno vinto loro, tocca a noi di rimontare questa sera. Mario, no, la domanda voglio fare al Dan: non credi che giocare con due lunghi di ruolo quale Rocca piuttosto che Eze, piuttosto che Petravicius, tolga pericolosità dall'arco? Faccio un esempio, non so, Pecerov, che per vari motivi non l'hai portato in panchina, ma non sarebbe meglio avere un numero 4, un lungo che ti può aprire l'area col tiro da 3? Guarda, infatti tu che devi fare il mio vice allenatore, perché Pecerov va in formazione questa sera a posto di Petravicius, proprio per questo motivo qua. La cosa che accusiamo moltissimo ovviamente è la perdita di Jonas Baciulis per questo, certo, grave incidente al ginocchio, perché e poi inserimento di un giocatore proprio alla vigilia dei playoff, cioè sono cose che scombussano tutte le carte, una squadra e tutto. Dobbiamo veramente, certamente loro vanno sotto canestro in 5 in aria e noi dobbiamo aprire la scatola con tiro, questo poco ma sicuro. Mancinelli, che generalmente è abbastanza affidabile da 3, ha avuto una serata così da 3 l'altro giorno, lui deve segnare, e poi se non lui, Pecerov dentro deve segnare lui. Però con Hawkins come 3, Carl che è un buon tiratore, Mordente che è un eccellente tiratore, Greer e Jabber che sono buoni tiratori da 3, dovremmo avere abbastanza armi per farlo, però 5 su 20 non va. Posso farti una domanda, Dan? Come hai dato qualche consiglio a Lynn Greer, che è stato fischiato dal pubblico e ha giocato pochi minuti? Insomma, hai dato... Mario, bisogna sapere che fino a ieri pomeriggio lui aveva questo problema alla schiena, anzi aveva il busto, okay, cioè il corsetto, come se il busto addosso per tenere dritto, non aveva la stessa flessibilità, elevazione, scatto del solito, e quindi lui certamente l'ha criticata perché quello hanno visto, però io dico che magari la critica doveva essere versata verso di me, perché l'ha fatto giocare in condizione non sì, ottimale, questa è la storia, perché lui è andato dentro per la squadra, anzi lui è molto partecipe, mi parla durante la partita con osservazioni, idee, quindi è quasi un allenatore in campo quando c'è, e quindi apprezzo quello che ha fatto lui, ma adesso giudichiamo lui questa sera per quello che fa, non l'altro ieri. Senti coach, ho letto con molta attenzione l'articolo che ha scritto oggi Luca Chiabotti, il consiglio che ha dato Luca Chiabotti sulla Gazzetta. Da una parte ha ricordato il playoff dell'80, il tuo primo a Milano, quella sconfitta in casa con Forlì, e poi abbiamo vinto. E poi avete vinto. E dall'altro ti butta lì un'idea forse un po' strana, quella di Carl playmaker. Ma Carl può anche finire come playmaker. È una tua idea? Non è strana questa idea. Cioè, anche noi abbiamo preso Carl come 1, come 2, come 3. Quindi è una possibilità. Possibilità, sì. Non abbiamo avuto ovviamente il tempo materiale per fare questo, e poi facendolo magari sfiduceremo tutti, ma sì. Però lo facciamo con Greer. Quando Greer va dentro dice: Ibi, tu gioca due. E quindi posso anche dire: Ibi, lascia Kobe fare uno, tu fai due, esci dai blocchi, eccetera. Quindi cercherò di fare in questa maniera, o che non è una cosa mettiamo tutto basato su quello lì. È un'opzione, ovviamente, che a volte non ha torto. Certo, cosa. Un'ultima cosa, la gente di Milano che tu hai chiamato per la partita di stasera, al tuo debutto 5.750 spettatori per salutare il tuo ritorno contro Caserta in un giovedì sera di gennaio, 2.000 l'altra sera nella prima di playoff, a primavera. Sì, perché? Guarda, non lo so, cioè, probabilmente la colpa è nostra, che dobbiamo offrire più garanzia, più spettacolo, più risultati, più di tutto, di quello che abbiamo fatto recentemente. Certamente non abbiamo conquistato il pubblico con la prestazione di due giorni fa, questo è poco ma sicuro. Cioè, il pubblico vuole andare lì per tornare a casa soddisfatto, cioè proprio dalla prestazione della squadra, dal risultato, da quello che hanno visto. Noi certamente, e ringrazio le 2.000 persone che sono venute, ovviamente vorrei avere loro questa sera più altre 3.000 persone, è un grandissimo, grandissimo tifo, però devo ringraziare chi è venuto per la partita e devo chiedere scusa a loro per quello che abbiamo offerto come in ritorno. Grazie coach, ciao ragazzi, bocca ciao lupo. Mario, ciao Dan, ciao, ciao. Grazie coach, come vedi Milano Mario? Beh, prima di tutto posso dire una cosa col cuore aperto: Sassari secondo me è stata Meo Sacchetti miglior allenatore dell'anno, poi discutiamo Trinchieri superstar, Frank Vitucci e Meo Sacchetti. Sassari però a sorpresa meravigliosa. Però diciamo che una semifinale Cantù Sassari toglierebbe tanto pathos a questo finale di stagione. È una cosa un po' impopolare da dire, no? Però insomma, così, insomma, Milano Cantù in semifinale sarebbe l'evento dei playoff. Assolutamente, dobbiamo fare i complimenti a questa Sassari, a Meo Sacchetti, meraviglioso, perché è vero che Milano ha sbagliato la partita, è vero che c'è Maciulis che non ha giocato, ma Sassari non aveva Travis Diner, ha giocato con Mauro Pintone che ha giocato tanti anni in Lega in Serie A dilettanti, ha giocato con Brian Sacchetti, figlio di Meo Sacchetti, che non è sicuramente un giocatore di primissima fascia in Serie A, eppure ogni volta che io l'ho visto ha fatto partita straordinaria. C'era Vanya Plisnic, che non è a Biella, non è che abbia lasciato un grandissimo ricordo, e due giocatori nuovi, quali Otello Hunter, anche lui eccellente, miglior realizzatore della Serie A, James White. Quindi una Sassari che gioca un gran numero di possessi e non dà punti di riferimento, è questo che mi piace di Sassari. Detto questo, Milano ha queste grandi contraddizioni. Ho detto a Dan, non mi piace il doppio pivot perché è troppo penalizzante quando tu giochi il pick and roll e giochi quando il lungo va verso canestro, l'alto dovrebbe offrire maggiore pericolosità esterna e invece non c'è, ecco perché Pesirov viene messo ancora in panchina. Quindi possiamo parlare di pick and pop, cioè quando il lungo esce tira da tre punti, no? Più o meno così, però non so quanti riusciranno a interpretare queste parole di chi ci ascolta. In ogni caso, Milano con Pesirov, che è un giocatore che non mi piace perché è troppo soft, tramite il suo ingresso può dare più pericolosità. Da un punto di vista tecnico diventa irrinunciabile. Un sacco di messaggi, poi li leggo: 349-238-6666, telefonate 800-24-0024, traffico, poi torniamo qui e vorrei parlare anche di Alessandro Gentile, cosa dice? Era straordinario questo ragazzino di 18 anni che conosciamo bene e che impareremo a conoscere ancora di più, all'impressione. Palla spicchi. Sempre qui con Mario Bani, un sacco di cose da raccontarci su questo primo giro di pista dei playoff. A proposito di messaggi, Massimo da Varese: ma quanti giocatori infortunati abbiamo? Troppi, è dura vincere, scrive, contro Cantù. Dicevo prima, un primo derby lombardo non granché, ma più che altro per merito di Cantù, che ha giocato la partita perfetta. Forse Varese tratta in inganno dall'ultima giornata di campionato, dove ha condotto per larga parte, l'approccio alla partita è stato eccellente e quindi forse è entrata convinta di proseguire su quella riga. Invece Cantù ha aggredito, ha fatto una partita, come ha detto, sottolineato il coach Trinchieri, che da due mesi aspettava una partita del genere. In ogni caso, diceva bene il radioascoltatore, giocatore, il fatto di avere tanti infortunati o perlomeno non in grande condizione è penalizzante. Però attenzione, Varese nel derby sono convinto che renderà dura la vita di Cantù. Ah, sicuro. Poi c'è chi scrive: giovedì sera in TV, ESPN Classic, Sky, Sport Italia, Rai Sport, tutto basket, spettacolo, scrive Luca. Beh, il basket in questo momento, dove c'è di calcio, si parla solo di mercato perché ormai i giochi sono fatti, a parte chi vuoi Coppa Italia. Beh, io vorrei Fabregas e Sanchez, sarà impossibile soprattutto per Fabregas. Sanchez diciamo che è quasi fatta. Sanchez è fatta, già da un po'. È quasi fatta, t'ho ascoltato anche... La sapevo anch'io questa. No, ma ancora no, dipende dai giocatori che bisogna dargli. Ma sì, ma... Cotechinho parla... Cotechinho, Mariga è un giovane su cui che l'Udinese sta cercando di individuare, perché ovviamente quello sarà... il giocatore più importante, visto come lavora e come ragiona l'Udinese, e poi arriva il Nino Maraviglia. A proposito di Nino Maraviglia, ieri ho visto una gran partita di due ragazzi. Gentile. Sì, Monti e Giunas sono contento, però insomma, non essendo italiano mi lascia piuttosto indifferente. Alessandro Gentile, il figlio del grande Nando, ha fatto una partita di grande sostanza, bravo Repesa, che l'ha protetto quando c'era da proteggerlo e quando l'ha spronato quando era a caso di dargli qualche scappellotto, e ha tirato fuori una grande partita per un ragazzo di 18 anni, soprattutto nel quarto. Ormai sembrava Mario Boni nel quarto, le voleva tutte lui, quasi come me, quasi come le voleva tutte lui, le palloni decisivi li voleva lui e li ha giocati lui, 9 punti dei 20 che ha fatto nell'ultimo quarto, ma assist, rimbalzi, palle vaganti, palle sporche, è stato il dominatore dell'ultimo quarto, un bel giocatore, un ragazzo di 18 anni. E poi ha detto: ma perché devo aver paura? Sono qui per giocare a basket. Ha preso proprio dal padre in questo caso. È peccato che dietro di lui ci sia un po' di deserto per quanto riguarda il movimento dei giovani italiani. Quindi teniamoci stretti questo Alessandro Gentile, però sicuramente non è che una rondine fa primavera, ma ci vorrebbe che altri giocatori fossero così importanti, che riuscissero a uscire da quella che è la melma della mediocrità. No, poi ha ragione il coach. Insomma, in prospettiva nazionale a noi serve un playmaker e un pivot. Lo so, anche perché la grande delusione è Crosariol, questo è stata una grande, grande delusione, ma lo è già da un paio d'anni. Roma aveva puntato su di lui e non è riuscito a fare, non è praticamente il centro della nazionale. Il playmaker c'è questo Cinciarini, questo Cinciarini del Montegranaro, che sta facendo bene in una squadra che quest'anno ha faticato, però ecco, non è che ci sono. Sì. Tanta merce in giro non c'è. No, non c'è. Allora, tra i vari messaggi, Tommaso, vorrei conoscere la vostra opinione su Barcellona, credo Barcellona Pozzo di Gotto, che si giocherà la semifinale con Casale in Lega 2, sulle possibilità di andare in Serie A. Poi stasera sarò al palazzetto a vedere Brescia-Trapani, dopo 20 anni potremo tornare in Lega 2, noi che c'eravamo stati negli anni 80, siamo tutti emozionati, scrive Fabio. Oppure c'è chi chiede, come Gianni a Reggio Emilia, un'idea sulla deludente stagione di Melli, a proposito di finali di... Melli, cosa dici? Male, molto, ma io l'ho visto a Milano, è arrivato con grande prospettive, no? Grande attesa, il giovane Melli ha fatto bene a cercare di giocare in quel di Pesaro, però Pesaro dal Monte non si è fidato così tanto di metterlo in campo, tra l'altro aveva davanti un morto perché Aleksandrov ha fatto una stagione disastrosa, una delle più grandi delusioni della stagione insieme a quella Ryan Toulson, sì, che ha giocato prima a Benetton e poi a Montegranaro. Eppure non è riuscito a sfondare, ci sarà da riflettere, ha bisogno di giocare, però ha bisogno di essere un po' più cattivo, no? Al di là dei suoi mezzi, non mi vedo così pallido, così bianco, così poco, poco cattivo. A me piacciono i giocatori cattivi. Occhi della tigre. Gli occhi della tigre non forza, li vedo. Carlo da Potenza, Giuseppe da Rovigo in linea per parlare con noi. A proposito, Mario, un attimo Carlo e arriviamo. Brescia-Trapani, Brescia potrebbe tornare, due piazze grosso modo storiche degli anni 80, 80, 90, sarei contento, però Piacenza che nel cuore ti sta. Piacenza ha perso una sfida molto appassionante con Treviglio, chiaramente ho fatto due promozioni con Piacenza, ha vinto, quando giochi al meglio delle 5 vince sempre la migliore, quindi bisogna solo fare i complimenti a Treviglio, c'è da salvare la stagione straordinaria di Piacenza neopromossa che ha vinto la stagione regolare, poi però si sa che il basket viene tutto definito in quei playoff e ha perso, e quindi ci sarà da riflettere su questa situazione. Sì, e poi c'è l'estate che è il tempo del mercato, dei giocatori ma anche dei diritti, e vedremo cosa farà Piacenza. Carlo da Potenza invece. Buongiorno a tutti, salve. In particolare a quel grande bomber di Mario Boni. Grazie, ciao, buongiorno. Due domande e poi ditemi voi se sono troppo disfattista. La prima, per me è desolante vedere un playoff dove si gioca per il secondo posto, sì, e dove l'unico motivo di interesse, come diceva dicevate prima voi, è vedere i progressi di Alessandro Gentile. Mm. Per me, almeno io li guardo soltanto in quella funzione, perché sapere chi ha già vinto è una cosa molto, molto desolante per, certo, me. Seconda cosa, ma non è colpa di Siena, semmai di tutte le altre, questo, no, ha, no, ragione. Appunto, la mia seconda domanda credo che mi ci porta a quello. Seconda cosa, forse ancora più desolante, secondo voi l'anno prossimo si impegneranno ancora di più Milano e soprattutto Roma a peggiorare quello che hanno fatto quest'anno? Bella. Perché guardate, che non mi si venga a parlare di budget almeno per Roma e Milano, perché se hanno problemi di budget loro vuol dire che Cantù non potrebbe giocare a quei livelli. No, certo, certo, quindi, non è questione, non è questione soltanto di soldi. Se Roma può fare peggio, vuole sapere se può fare peggio Roma. Al peggio non c'è mai fine, diciamo. Molto, sei molto, molto competente questo radioascoltatore, complimenti, perché hai analizzato, mi hai rubato le parole, perché effettivamente è brutto vedere un campionato dove si corre per il secondo posto, però Carlo ha detto bene che non è colpa di Siena, questo è sicuro. Hai fatto anche un altro punto importante, cioè non si parla di budget, perché qui si parla di Milano e di Roma, che hanno speso tanti quattrini, hanno preso quelli che dovevano essere i migliori giocatori italiani sul mercato e hanno fallito. Quindi c'è qualcosa che va al di là del fatto del semplice budget. Non sarebbe giusto e sarebbe brutto nei confronti di Siena e del management di Siena. Quindi bravura loro e cattiva gestione delle risorse da parte delle due grandi città italiane, perché non è possibile riuscire a fare una campagna acquisti ogni volta poco funzionale al progetto e vincere e mettere perlomeno in difficoltà Siena. Quindi sono assolutamente d'accordo. Non sembrano la Juventus, via. Sembra anche l'Inter dei vecchi tempi, no? Cercava un terzino sinistro, prendeva Gresco, piuttosto aveva Roberto Carlos, succedeva. Io credo che se fossi io pensavo al tempo, fossi all'Inter non potrei mai sbagliare formazione, così come se io fossi a Milano o fossi a Roma non potrei mai mettere insieme una formazione come quella di Roma, che per esempio fallisce le Final Eight di Coppa Italia o fallisce addirittura l'ingresso nei playoff. È impossibile, perché devi essere oggettivo quando vai a fare delle scelte. Quando tu mi prendi un nucleo di italiani, li strapaghi, quando non c'è un'alternativa, una competitività di offerta, beh, allora vuol dire gettare soldi alla finestra. Eh sì, caro Mario. Massimo, provincia di Bergamo. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo chiedere, se proprio volevo sapere una cosa. Sì. Come è finita la questione di Piram per quanto riguarda la penale dei 500.000 euro? Si sa già? Sì, ha già. Scusi. Dica. Sapere un'altra cosa, sì. Per l'Eurolega l'anno prossimo Roma c'è ancora oppure no? Roma ha perso la licenza l'ultimo anno, perché Roma aveva la licenza triennale e l'anno prossimo sarebbe stato l'ultimo anno, poi in ogni caso non era così scontato, l'avrebbe riavuto indietro, quindi l'ha persa non avendo centrato i playoff. Quindi il punto è che in Eurolega probabilmente sicuramente ci sarà Siena e più la finalista di questo campionato. Probabilmente avremo due squadre, a meno che il grande presidente Bartomeu, adesso sì, lo pronunciano, Jordi Bartomeu. Bartomeu deciderà qualcosa di diverso. In ogni caso, Roma ha perso la possibilità di giocare l'Eurolega. L'altra domanda, presidente Carlo Teramo. Antonetti, presidente Carlo Antonetti ha detto che vuole pagare questa penale di 500.000 euro. Entro il 23 maggio deve decidere se versare questi 500.000 euro, che devono andare su un conto separato alla Lega Basket, il quale entro il 15 giugno dovrà versarli alla squadra di Lega 2 che perderà la finale per andare su in Serie A. Ma conviene, secondo te? A mio avviso, in questa situazione economica, con un budget come quello di Teramo, come quelle squadre della fascia di Teramo, può essere Biella piuttosto che Montegranaro, piuttosto che la stessa Sassari, 500.000 vanno a influire tantissimo su quello che è il budget di una squadra. Tra averlo e non averlo, io dico sempre, vale 1 milione. Quindi rischia Teramo, nel caso in cui dovesse pagare, come sembra, questa penale, di iniziare la prossima stagione in già in grande difficoltà. Benissimo, ci fermiamo per la borsa, che interessa molto a Mario Boni, con tutti i quattrini che ha investito in borsa. Esatto. Su Parmalat. Ci fermiamo per la borsa, poi torniamo insieme per parlare di basket, ma non solo. 800 24 00 24, vi aspettiamo qui. Palla spicchi. Dunque, caro Mario Boni, io ho un Federico che vuole sapere dove giochi l'anno prossimo e un Francesco da Roma che ti domanda che cosa faresti da direttore sportivo di Roma. Beh, da dove partiamo? Da dove giochi l'anno prossimo? Dove gioco l'anno prossimo? Vediamo ancora. Nell'NBA. Sono, esatto, io voglio dichiararmi eleggibile per l'NBA e adesso vediamo se entro nelle prime 8-9 che ho un conto, altrimenti, no, a parte gli scherzi, vediamo, perché il basket è ancora, mi regala ancora grandi sensazioni, quindi vediamo, è una decisione che prenderò tra un mesetto, via più o meno. Roma? Roma, beh, l'allenatore, io prenderei un allenatore di grande, uno Scariolo o Messina. Ultimamente non terrei Filipovski, Tanjevic, anche lui non ha ragione d'essere, anche perché il grande Boscia, che ha fatto tantissimo per l'Italia, per la nazionale, con i problemi che ha, sono in Turchia, quindi cambierei parecchio e dovrei vedere un attimo il mercato. Quindi, ripartenza dall'allenatore. E poi è chiaro anche che se prendi un allenatore come Messina Scariolo, i giocatori li scelgono, se no non vengono. Esatto. Prenderei, sì, fossi Totti, io prenderei un allenatore di grande affidamento, non una scommessa come Filipovski. Un allenatore, io prenderei Scariolo. Ecco, Scarioli, so che non è facile, o piuttosto che Messina, e anche lì non è facile. Io vado su facili allenatori, però ecco, un allenatore di grande importanza, di grande spessore. Blatt, magari. Esatto, uno come Blatt andrebbe molto bene. Molto ha costruito cose bellissime al Maccabi, credo rimarrà laggiù, però ha esperienza, come sanno bene a Treviso, della nostra pallacanestro, se non Messina Scariolo, che mi sembrano difficilmente raggiungibili, soprattutto Ettore Messina, che non ho ancora capito bene dove va. Messina, l'America, a Milano. Tutti lo vogliono, ma per adesso ancora lui non ha deciso. Non so, ci sta che prenda anche un anno sabbatico, no? Aspetta. Sicuramente Messina, per andare in una squadra, come credo anche Sergio Scariolo, ha bisogno di un progetto dove lui possa scegliere, possa... io credo che dovesse andare in una qualunque squadra rivoluzionerebbe tutto, ecco perché c'è un po' di timore, no? Un po' di attesa in questo. Dunque, tu sai che Andrea Zorzi è in giro per l'Italia? Come no, ho visto l'articolo, ho letto gli articoli, super. Adesso è in Sicilia, beato lui. È in Sicilia e ci vuole raccontare, anzi lo preghiamo di raccontarci una storia di basket. Ciao Andrea. Ciao, ben ritrovati a tutti. Come stai? Ho appena lasciato la Sicilia. In questo momento sto risalendo, sono a Pizzo Calabro, ma ieri ero in Sicilia. Dopo aver fatto un giro meraviglioso in una regione meravigliosa, abbiamo fatto una sosta, devo dire straordinaria, a Priolo. Abbiamo conosciuto la storia meravigliosa di questa squadra che il prossimo anno festeggia un quarto di secolo consecutivamente in Serie A1. E però domani Santino Coppa, che è l'artefice da sempre, il dioscuro di Priolo, sì. Esatto. E consegna, letteralmente consegna la squadra in mano al sindaco, perché ormai da qualche anno tirano avanti, lo sapete meglio di me, con un po' di difficoltà e vorrebbero riuscire a fare un cambio di marcia. Ciò però che a me ha colpito moltissimo, può essere che io sono appassionato di basket, però questo viaggio è un pochettino legato anche al ruolo, all'anima, allo spirito dei luoghi che incontriamo, mi ha raccontato delle cose che io non sapevo, forse voi li sapete perfettamente, ma mi raccontano quando nel 90 vinsero la Coppa Campioni a Cesena contro l'Armata Rossa, le campane a Priolo suonarono per la prima volta per annunciare una buona notizia, perché fino ad allora suonavano solo per dire che c'era il rischio di esplosione dell'impianto petrolchimico che sta a 100 metri dal Palapriolo. Sì. E che non c'era un cinema, non c'era un teatro, non c'era assolutamente nulla, perché era un grande dormitorio in cui lavoravano solo gli operai, e che quindi questa squadra di ragazze soprattutto era diventata l'unica occasione per un numerosissimo gruppo di persone per avere qualcosa a cui aspirare, a cui fare. E quindi loro si sentono veramente legatissimi. C'era anche Sofia Vinci ieri, ci raccontando quanto fosse legata a questa storia. Gli ho chiesto a un certo punto: senti Sofia, sai che si dice in giro che i palazzetti, anche quando sono vuoti, non sono mai silenziosi? Lei mi ha dato con gli occhi, devo dire, un po' emozionati, e fa: ma lo sai che io a Natale entravo in questo palazzetto, mi mettevo al centro ed ero convinta, o meglio, sono convinta di sentire ancora le voci del pubblico che ci incitava, o di Santino Coppa che cercava di darci un po' di stimolo in più. Che le insultava. Esatto. No, Priolo delle ragazze ha fatto epoca, Mario, ti ricordi? Sì, ricordo le grandi sfide di allora, perché oltre a Priolo c'era Cesena, c'era Stefano Tommei che allenava prima a Cesena, poi a Faenza, quindi il basket femminile vinse anche, Tommei vinse anche una delle Coppe Ronchetti, no? Per dire, ritornare al tempo dei tempi, no? Della Coppa. E Priolo... Quella Coppa dei Campioni a Priolo fece scalpore, fece epoca, però nel profondo sud italiano, un palazzetto in mezzo a una raffineria e Santino Coppa che si inventò questa squadra. Si inventò poi la squadra femminile, quindi sì. È strano, no? Perché uno dice voglio trovare popolarità, insomma, col basket maschile in genere, così invece con quello femminile ha ottenuto un grande successo. La Sicilia però vuole tornare anche sul fronte maschile, vedi Trapani, vedi appunto Barcellona, di cui ci hanno chiesto lumi prima, non li abbiamo dati colpevolmente, però è una Sicilia che vuole tornare, una Sicilia che però va un po' su e giù per mille problemi, quando... e c'è il boom di Capo d'Orlando e poi Capo d'Orlando ha le vicende che ha, c'è Messina molto... e poi via Messina e poi Trapani e non c'è più Trapani. Guarda, la realtà del basket, così come quella della pallavolo, io credo, cioè la realtà di provincia dipende molto da chi, dal patron, da quello che vuole investire i quattrini di fatto, no? Quindi sono diverse realtà importanti, lo è anche Agrigento, per dire, che quest'anno purtroppo è retrocessa e c'era il nostro Vincenzino Esposito ad allenare, quindi dipende molto dalla realtà molto locali, della situazione economica del posto, no? Perché non è le grandi multinazionali che vengono attirate dal calcio. In realtà, come pallavolo e basket, vivono dell'imprenditore locale. Certo. Andrea, dove vai adesso? Dove ti troviamo domani? Dunque, oggi risaliamo, andiamo fino sul Parco del Pollino, di cui si dicono meraviglie, nel senso che in Calabria, al di là del Granillo, che è lo stadio di Reggio Calabria, del Pala Calafiore, sede della Viola Reggio Calabria fino a qualche anno fa, non ci sono dei luoghi che hanno fatto veramente la storia dell'Italia. E allora facciamo un po' un'esperienza, un esperimento. Il Parco del Pollino sta cercando di diventare un luogo nel quale, attraverso alcune attività sportive un po' più recenti, sai, dal rafting al parapendio, cercano di utilizzare uno spazio bellissimo per quanto riguarda la natura, dove lo sport abbia una componente importante, sia anche un motore economico. Nella speranza di diventare, come è avvenuto ormai tanti anni fa in Sicilia e sulle Madonie, quando la corsa di Formula 1 divenne un'occasione di portare 800.000 tifosi, quindi l'economia locale si è mossa per molti anni grazie a un evento sportivo come la Targa Florio. L'idea è che il Pollino stia provando, chissà se si riuscirà, a fare in modo che lo sport, nella sua concezione più ampia, quindi non solo quello codificato che riguarda il basket, la pallavolo, il calcio, ma le attività sportive, siano il fulcro anche di attività economiche, mi sembra una cosa che in altri paesi fanno già da molti anni, ma che qui sia comunque, paga la pena, una bella visita. Ne parliamo domani, Andrea, buon viaggio. Ci sentiamo, state bene, in bocca al lupo. Ciao Andrea. E a Targui, posso dimmi una piccola... A tal riguardo, quando diceva Andrea Zarzi sulle piccole realtà locali, bisogna assolutamente difendere queste realtà di provincia. La nuova riforma, e io sai che sono molto sensibile su come si vuole fare basket, la nuova riforma che ci sarà l'anno prossimo con questa A3, questa Lega 3, dove ci sono gli under, dove meno squadre e vogliono valorizzare i capoluoghi di provincia, è sbagliato, perché il basket come pallavolo è nei centri, piccoli centri di provincia. Non è giusto, o più o meno è giusto in parte, aiutare i grandi centri di capoluoghi di provincia, perché lì ci possono essere buoni settori giovanili, però il basket è anche in quelle realtà di provincia molto lontane, dove non ci sono grandi settori giovanili, e dove possono avere difficoltà ad ottenere questi giocatori giovani per poter andare, che possono fare la squadra. Quindi ecco, a volte si fanno i regolamenti più per compiacere piccole queste grandi realtà, invece di sottolineare quello che è il vero movimento italiano, che sono le piccole realtà di provincia. Ma guarda Mario, io certe volte ho l'impressione che si vada a caso. Non mi sembra che ci sia anche questa storia degli under, no? Dove vedono così, storia, cioè, dei, abbiamo un solo giocatore che è Alessandro, formule 3 più 2, 2 più 2, 3 più 4, lasciamo americani libero. Ormai è libero. Per me il basket professionistico deve essere libero, a parte la Serie migliore, A poi, libera, poi la Lega 2 è già bellissima, la Lega 2, perché sono tanti italiani, ma poi questa faccenda degli under, dove vedono così tanti, perché per molti che adesso stanno ascoltando e non sanno, ci sarà una riforma dove viene obbligato, c'è l'obbligatorietà degli under in questa famosa A dilettanti, e dove vedono così tanti giovani? Non ci sono, perché non ci sono più i settori giovanili, perché è difficile reclutare, è difficile mantenere i giovani a fare basket. Insomma, io quando ho cominciato a fare basket, giocavo in serie minori, non c'erano tutte queste limitazioni, eppure tanti giocatori sono venuti fuori. Sì, sì, certo, c'era in questa maniera, diverso comunque di gestire lo sport. E permettimi, no? In questa maniera si toglie il sogno ai nostri giovani, perché la generazione dell'88, attenzione, mm-hmm. quelli che hanno 23 anni che non sono più under, e per molti mi staranno ascoltando con le orecchie grosse di cosa sta parlando Mario Boni, questi under che, dato che c'è una limitazione di età e quelli dell'88 non sono più under, si trovano in quel territorio di mezzo dove non, è difficile che possano, non sono abbastanza forti, non faranno la squadra e dovranno, si troveranno ad aver sognato per tanti anni di poter fare del basket il proprio lavoro, il proprio sogno, il proprio modo di realizzarsi, e dovranno inventarsi dal nulla qualcosa di nuovo. Voi direte, beh, è giusto che qualcuno faccia un lavoro diverso, però attenzione, se io ho un figlio e devo dirgli guarda, il basket può essere un modo di trovare soddisfazione anche lavorativa, beh, questo non lo dirò più, perché poi una società non mi può chiedere di fare due allenamenti al giorno e andare in trasferta, andare in ritiro, perché forse mi danno qualche centinaio di euro al mese, perché dopo per 3-4 anni poi vai a lavorare. C'è un concetto sbagliato. Vedremo se funzionerà, ma i miei dubbi ce li ho e me li tengo, come te Mario. Ci fermiamo per il traffico, subito dopo andiamo non in un grande centro ma in un centro di sta cuore come Teramo. C'è Fabio, a dopo. Palla spicchi, torniamo con Fabio da Teramo, appunto. Buongiorno. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti, complimenti per la trasmissione. Grazie, niente, vabbè, so che Teramo è rimasta nel cuore di Mario Boni, certo. Che saluto sempre. Al di là delle considerazioni, perché poi vorrei ricordargli insomma un aneddoto di qualche anno fa quando era a Teramo, però al di là delle, diciamo, delle conseguenze che diciamo la tassa da 500.000 euro potrà recare a Teramo sul budget di Teramo per i prossimi anni, io farei un grande elogio al coach, al nostro coach, perché comunque Alessandro Ramagli, esatto, sì. Mi sfuggiva un attimo al volo, e che comunque ha saputo veramente ricompattare l'ambiente distrutto, partire da uno 0-7, un ambiente demotivato, stanco, spompato, e che ha pagato secondo me, secondo tutti, quelle che sono state delle scelte di mercato a dir poco assurde. Basti pensare al fatto di incentrare una squadra su Mike Cole, che conosciamo tutti essere un giocatore incostante, ti fa vincere una partita, te ne fa perdere 5. Certo, era il grande rischio, era il grande rischio. Una pippa, possiamo anche dirlo. Mario, tu vuoi dire tutto. Perdonatemi il francesismo. No, ma lo tagli dopo 5 giornate è una cosa assurda. È come se il Milan tagliasse Inzaghi perché fa un gol ogni 3-4 gare, però alla fine ti fa vincere le partite. No, ma no. È corretto no, quanto. Però quanto perdonami. Dice Fabio, però l'errore è a monte, cioè nel dire costruisco la squadra intorno a Mike Cole. Quindi il peccato originale l'ha poi pagato fino alla fine. Non sarà stato l'unico, ma uno dei più importanti. Sì. È stato sicuramente determinante, Fabio, perché. Il problema è Mike Cole, che ha deluso in una grande squadra come Milano, perché lui non è un 4, perché ha un buon tiro da 3 ma a spalla canestro non ci va mai, ragion per cui nel momento in cui Teramo e Capobianco lo ha messo anche in posizione di ala piccola, non aveva la capacità di sfruttare la sua altezza, il suo atletismo a spalla canestro, quindi un giocatore assolutamente inutile, non riusciva a mettere la palla per terra col ball handling, non batteva nessuno al palleggio. Che poi, ci sta a fare? Ascolta, io una squadra intorno a uno che comunque ha, diciamo, l'estro, no? Anzi la testa di Mike Cole, io non la costruisco, no, cioè, non do le chiavi della squadra a un giocatore così ondivago, anche dal punto di vista caratteriale. È stato sbagliato lui, e poi anche l'altro grande errore, Iron, è stato un errore, perché una guardia americana, mi sembrava il doppione un po' di Zorowski. Iron è stato due americani sbagliati, e da lì deriva lo 0-7, che chiaramente quando tu cominci a perdere perdi la fiducia, perdi l'entusiasmo, sì. È un cane che si morde la coda, e detto questo, il Capobianco, che è stato bravissimo per 2 anni a Teramo, bisogna fare i complimenti a Alessandro Ramagli, livornese doc, come tanti allenatori, come Allegri, come Mazzarri, come Sandro Dell'Agnello, che sta portando in Serie A Brescia, quindi come Walter De Raffaele, insomma tanti livornesi. È l'anno del livornese. Il livornese, e quindi complimenti, perché ha fatto una grande rincorsa, e ricordiamoci che il regolamento non parla di wild card, ma parla di premio di risultato, e nel regolamento, l'articolo 3 della federazione del regolamento con le leghe, parla della retrocessione solo la 16ª squadra, sì. E la 15ª c'è questo, io chiamo anch'io wild card, questo premio di risultato che dovrebbe pagare. L'hai studiato con attenzione, io molto meno, ti dico la verità. Senti, ma dimmi una cosa, ma nei playoff vai a Siena, puoi perdere la partita ma non puoi lasciare a casa l'orgoglio. Secondo me ieri sera, al di là dei numeri, la Virtus che è alla peggior sconfitta della sua storia nei playoff, però non vai a Siena per perdere 94-55 mai in partita e senza orgoglio, senza carattere. Negativo film, Carlo, fin dal primo quarto 29-13 vuol non dire pervenuti. Che se tu vai lì con Siena e giochi in surplus e prendi una lineata del genere, questo fa male. Ok, la sconfitta ci sta, ma non ci sta per la Virtus Bologna, le V nere, insomma, per l'orgoglio di questa squadra, dei tanti tifosi. Sappiamo le polemiche che ci sono tra il presidente Sabatini e tanti appassionati fedelissimi della storia della Virtus. Fa male e non ci sta a perdere, ma non in questa senza maniera, giocare, no. Senza giocare, con una squadra sfilacciata, senza orgoglio, come sottolineavi tu. Quindi una pagina nera nella storia della Virtus. La pagina nera della storia della Virtus, gara 2 sarà scontata e gara 3 a Bologna credo che sarà il teatro dei contestatori, grosso modo. Mi auguro di no, perché bisogna sempre voler bene a una squadra, però l'aria che tira Bologna è un po' questa. Bisogna anche dire che Siena in sua serie lunga è praticamente imbattibile. Rifacciamo i complimenti a Pianigiani, che ha cambiato, che secondo me non si sapesse, ha avuto tanti infortunati, ha avuto tanti cambiamenti, un modo di giocare completamente diverso dal cambio di Terrell McIntyre con l'arrivo di Bo McCann. Quindi insomma una Siena che riesce sempre a trovare un modo di giocare che è divino. Ridevo perché c'è Nico, un ascoltatore, che scrive: non dite la Becchi che è l'anno dei livornesi. È vero, ma infatti noi non lo avevamo nominato. Mario, prima di andare al Giro d'Italia vorrei che chiedessi tu a Piero Augusto Stagi tra poco com'è la tappa di oggi. Nella notte Oklahoma ha vinto a Dallas. Io sono tifoso di Dallas e quindi ho rosicato un po' di 6 punti. I Bulls Miami 1-1, chi passa, chi va in finale NBA? Io mi augurerei, sicuramente io credo che Miami vada in finale, lo vorrei contro Dallas e vorrei che vincesse Dallas. Però attenzione, se Miami dovesse vincere, tutti zitti, anche gli abitanti di Cleveland, tutti zitti, anche i vari opinionisti che ha gettato. Sì. Tanta io tifo contro, l'anno che lo dico. Io tifo contro, però quando vedi dei giocatori interpretare il gioco della pallacanestro in quella maniera, beh, sai. No, ma indubbiamente 3 superstar assolute. Secondo me, delle 4, quella che gioca meglio resta Chicago, l'unica squadra veramente di pallacanestro, forse un po' europea, forse un concetto un po' così. Sì, però devo dire che Derrick Rose ha questo grandissimo cambio di passo, di velocità, però devo dire che il tiro da fuori è molto, molto lontano da essere solido. Sì. No, questo sicuro. Quindi MVP della stagione, perché chiaramente ha delle capacità incredibili, però insomma, per essere MVP, io insomma, uscire dall'arco di Wayne Wade, LeBron James o anche di Dirk Nowitzki è abbastanza pericoloso. Sì, anche se quando per me Durante equivale all'orgasmo cestistico, qui lo dico, qui lo nego e qui lo affermo, lo riconfermo, insomma. Andiamo al giro. Voci dal giro. Già che siamo in tema di pronostici, provo un po' a chiedere a Piero Augusto Stagi chi vince oggi. Ma chi vince oggi, a parte Contador? Sì, a parte Contador potrebbe vincere Nibali. Farebbe una certa differenza. Sarebbe già buono. Sì. Che punto siamo? Siamo a un punto che sono 16 in fuga, con 4 minuti di vantaggio, ci sono dentro 3 italiani, che sono Nocentini, Spezialetti, compagni di squadra di Scarponi, e Andrea Noè, la più vecchia del Giro d'Italia, che sta facendo il suo ultimo Giro d'Italia, il 29 di maggio abbandonerà Giro e ciclismo. Che punto siamo invece? Chilometro 80, la situazione è ancora appunto molto fluida, bisogna arrivare su questo monte, la montagna più alta dell'Austria, e arriviamo a quasi 2000 metri, diciamo, è la prima vera verifica di questo Giro d'Italia. E a parte Contador magari vincerà qualcun altro, Mario? Speriamo, anche se è difficile da credere, insomma sarà difficile togliere quella maglietta rosa a Contador. È il cannibale del 2000. Sì, non c'è nulla da fare, anche se questi 3 giorni, compreso lo zoncolando. Il zoncolando è bello. Sì, è bello, guarda, poi dopo domani ne parliamo con calma, eccetera, però è una salita, io sono stato... la prima volta che l'hanno affrontata, la prima volta nella storia, quindi era 2003 se non ricordo male, forse una salita fin troppo dura per essere tecnica, cioè una rampa paragonamela, su cui conti le formiche mentre... No, rispetto al mortirolo come stiamo? Insomma, sono quelle cose, sono quegli esercizi di equilibrismo. Peccato non ci sia il mortirolo. Quegli esercizi di equilibrismo. Va bene, di giro torniamo a parlare dopo GR delle 19. Voci dal giro. Ma prima vi diremo chi ha vinto, naturalmente, nell'edizione. Bene, alle 5 secondo me non ce la facciamo, facciamo nel GR delle 6, saprete il nome del vincitore. Il nome del vincitore dello scudetto invece lo conosciamo già, no? Del basket. Anche del calcio, sappiamo già. Basket e Siena. Bisogna solo stabilire in quante partite. Senti, ti aspetto presto, torna. Ma tu sai che io torno ogni volta. Noi intanto all'assegnazione del titolo saremo qui ogni venerdì con Pallaspicchi. Grazie Mario Boni. Grazie anche a Franco Piantanini in redazione, Fabio Cantadone in regia. Ci sentiamo domani con A Tempo di Sport dalle 5.